smeraldo, che grosso smeraldo. Lasciatemi, vi prego. Che significa questo? Mi volete spiegare? Che avete visto? Non niente di grave, una scappata, andiamo! Restate! No! No! La follia vi la volge! Ma poi non sapete come Thank you. sveglia ogni giorno più ardente, più intensa. Non vuoi Continuare l'inganno per conservarmi a Thank you. siamo venuti a turbare il nostro nido. Siete dunque felice? Sinceramente. Se ne parla a Parigi, si ricorda. E devo dirvi tutto. Non si crede. Sera decretò che Lisette non una stoffa per la gloria. E perciò io che vedo e capisco, ve la restituisco. L'artista d'una sera tornerà cameriera. Sarò quella d'allora se volete, ma certo finalmente. Felice, lo vedete, torna l'anima antica a palpitare, anche voi come lei, Magda dovrete se non oggi abbandonare. Una illusione che credete. Siete. È mio dovere, ho avuto questo incarico e lo compio. Da chi? Da chi mi aspetta, so dei vostri imbarazzi ed è pronto a salvarvi in ogni modo. Non più. Mi basta, ho detto tutto. Addio per sempre. Ne andate. Parto. Con certa gente non ho più a che fare. Ne son felice. Solo una preghiera. Ne vengo e m'ascolti. Permettete, signora, a che ora sei libera stasera? Alle 10. Ti aspetto. Mi dia da fare subito, chissà quanto, chissà di me, chi sarà senza di me, dove l'autore impianta. Nasci in un precipizio, ma la follia che so. Ora immediatamente vedrà, rimedierò. Thank you. No! 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 L'amore mistero nessun, nessun mai scoprì. Un bel giorno il re la bimba volle avvicinar. Se tu a me credi, se tu a me cedi, ti farò vita. Certo, la mia intenzione era d'offrirmelo prima di pranzo e ne dimenticai, ma l'occasione sembra inventata apposta. Della mia fantasia non si turba, ma in verità mi pare che vacilli quella della realtà, mi pare che vacilli. Allora che passi pure qui. Thank you.